Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo il mio blog, Guardie o Ladri, sull'home page del Sole 24 Ore. Ed infine vi ricordo che potete scaricare tutte le puntate di Un Abuso al Giorno, ma anche delle altre trasmissioni di Radio 24, andando sul sito www.radio24.it. Lì trovate una buona guida per seguire e scaricare per ordine cronologico, per argomenti, le varie puntate. Ormai va molto di moda, anche perché il tempo è sempre tiranno. Allora, ho ricevuto una lettera veramente inquietante da una radioascoltatrice che ci segue dalla provincia di Brescia, Vobarno per la precisione, Aida Garofalo. Buongiorno Garofalo. Buongiorno. Allora, devo dire che questa lettera mi ha colpito moltissimo. Io non vorrei perdere tempo nel raccontare, vorrei che lei ci raccontasse direttamente che cosa le è successo nel suo rapporto con la banca, con una banca, e diciamo anche di quale banca si tratta, e poi capirete il perché. Prego. Allora, io 3 anni fa ho ceso un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa con il Banco di Credito Cooperativo di Bedizzole Turano Valvestino. Ho ceso questo contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa e partendo da una rata di mutuo stabilita. Come tutti sappiamo, i tassi nel corso di questi 3 anni si sono prima impennati da far paura, per cui abbiamo avuto serie difficoltà a pagare, ad onorare la rata di mutuo, visto che noi eravamo già partiti da una rata, insomma, abbastanza altina. E nel momento in cui invece i tassi si abbassano, e si abbassano notevolmente, la banca ci spedisce, non solo a me, ma ho verificato a tanti loro clienti che hanno acceso un contratto di mutuo, ci spedisce una lettera nella quale indica che ci richiede una proposta di modifica unilaterale del contratto di mutuo, e già dalla lettera si capisce che unilaterale vuol dire, insomma, che io te lo propongo, tu devi accettarla. Esatto. Esattamente, citando peraltro quello che mi stupisce di più, un articolo, un decreto legge, quindi sicuramente immagino che debba esistere, io non sono ferrata in materia, ma immagino questo articolo 118 cui loro fanno riferimento, immagino che esista davvero. In effetti la sintesi di tutta la lettera ci dice che non abbiamo possibilità di opporci, semplicemente che poiché i tassi sono andati giù e la banca non riesce ad onorare praticamente gli interessi pagati ai risparmiatori, a fronte degli interessi minori che riceve da coloro che hanno acceso un mutuo o un prestito, ha deciso praticamente di aumentarci lo spread. Certo, ecco, quindi unilateralmente ha aumentato lo spread sul mutuo. Ecco, allora, perché io ho fatto ripetere il nome della banca? Perché siccome qualche annetto che faccio questo mestiere, lo svolgo sempre con professionalità e correttezza, abbiamo cercato l'interlocuzione con la banca di credito cooperativo, li abbiamo chiamati, gli abbiamo scritto delle mail attraverso la redazione, attraverso Elisabetta, ma ci hanno detto che non è il caso di parlarne per non alimentare polemiche intorno ad un caso che sostanzialmente non esiste. Noi avremmo tanto voluto avere la banca di credito cooperativo ad interloquire con noi, ma sapete com'è? Quando c'è da dialogare con i clienti, santa miseria, perché noi siamo clienti delle banche, allora a quel punto non si parla bene, anzi malissimo. Allora, detto questo, voi avete parlato con questa banca? Almeno voi ci siete riusciti? Allora, innanzitutto precisiamo che la lettera che abbiamo ricevuto è una lettera, insomma, comunissima, non è una raccomandata, non c'è una ricevuta di ritorno, una firma per ricevimento, eccetera, eccetera. Quando ho ricevuto questa lettera, io mi sono subito recata in banca, presso la sede della banca, e ho chiesto di parlare con il direttore. Il direttore, l'unica cosa che ci ha saputo dire è che si tratta di sicuro di una proposta, come dire, impopolare, ma in ogni caso è stata stabilita, decisa dal consiglio di amministrazione, e quindi c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Se l'accettiamo bene, altrimenti possiamo sempre recedere dal contratto. Benissimo, allora questo è il racconto. Noi, per sapere di più, avremmo avuto la banca come interlocutrice, ripeto, non è stata disponibile, e quindi abbiamo chiamato a parlare con noi Elio Lannutti, che è stato già nostro gradito ospite, senatore dell'Italia dei Valori, ma quello che più mi interessa è che il presidente di un'associazione dell'Adusbef. Buongiorno Lannutti. Buongiorno. Allora, il suo commento su questa storia: lei ha ricevuto la documentazione, così come l'ha ricevuta anche la banca, si esprima lei Lannutti. Dobbiamo dire che questo atteggiamento, diciamo, arrogante delle banche non fa onore alle piccole banche, ossia alle banche di credito cooperativo, che dovrebbero avere rapporti con la clientela più leali, più trasparenti. Che le grandi banche facciano questi soprusi è un dato di fatto, ma che lo facessero le piccole banche, questa cosa ci è nuova. Comunque, questo articolo famigerato 118 del testo unico bancario può essere impugnato, nel senso, non è che uno dice o ti mangi questa minestra o salti dalla finestra, se non ti stanno bene queste condizioni, diciamo, rescindi il contratto e te ne vai da un'altra parte rischiando di cadere dalla padella nella brace. Questo è un abuso, è un sopruso, quindi non per niente, insomma, lo sta trattando lei Galullo, e quindi io consiglio alla signora di impugnare questo abuso. Perché? Perché quando le banche, anche quelle di credito cooperativo, hanno consigliato mutui a tasso variabile, noi ci ricordiamo che i mutui poi sono, che i tassi di interesse sono arrivati al 4,5% e hanno messo in difficoltà tantissima gente, certo, 3 milioni e mezzo che non potevano più pagare le rate, certo, dei mutui, aumentate del 50-60%. Allora, nel momento in cui invece ci dovrebbero essere i vantaggi per il correntista, per il mutuatario, per la signora, la banca cambia le regole del gioco. Certo, certo. Ma ecco, e questo aumenta lo spread. Questa è una cosa che qualsiasi tribunale, io invito anche la signora, chiama in provincia di Brescia, insomma, se vuole la nostra associazione, noi a Brescia abbiamo un ottimo avvocato, ma qualsiasi associazione di consumatori, questa è una clausola abusiva del contratto, quindi in qualsiasi tribunale, ma non tanto per il caso di specie, ma perché queste banche si devono togliere il vizio di raggirare la clientela. Nel momento in cui dovevano incassare, hanno incassato. Nel momento in cui devono onorare il contratto, lo onorano perché aumentano lo spread. Certamente. Io non ho parole, questa è una cosa davvero vergognosa che continua ancora una volta a fare in modo che questi signori banchieri, che queste signore banche vengano in America. Io so che è uscito qualche giorno fa che i banchieri si devono armare di revolver, fanno la fila davanti ai negozi di armi perché altrimenti ci sarà l'ira popolare, e certo, noi non vogliamo, stigmatizziamo naturalmente qualsiasi violenza, soprattutto in questi giorni, assolutamente, nella maniera più ferma e decisa, qualsiasi violenza. Però questi signori banchieri devono cominciare anche loro non solo a prendersi bonus dopo aver combinato i disastri che hanno combinato con i derivati, ma anche con i mutui. Quando il tasso è variabile, contratto non può essere modificato. Ecco, io la interrompo. Ecco, io la interrompo un secondo, Lannutti, perché nel ringraziarla per il suo intervento vorrei lasciare l'ultima parola alla nostra radioascoltatrice. Impugnerà questo provvedimento, e ripeto, i nostri microfoni sono ovviamente sempre aperti per la banca di credito cooperativo chiamato in causa dalla signora. Prego, dottoressa Garofalo. Guardi, io sicuramente ho intenzione di andare avanti e di non fermarmi qui, questo diciamo che è stato il primo passo, perché in ogni caso volevo avere la certezza che ciò che la banca stesse facendo non fosse proprio nella norma. Certo, quantomeno, esatto, quantomeno nella norma. Sicuramente mi rivolgerò all'associazione che ha citato il vostro ospite. Certo, l'ADUSBEF, ecco, l'ADUSBEF, ma come altre associazioni, perché ovviamente l'Annuti, voglio dire, non ha certamente bisogno di pubblicità, tantomeno l'associazione che presiede. Io la ringrazio, dottoressa Garofalo, per il suo intervento. Grazie in regia a Carmelo Lauricella, in studio di Elisabetta Fusconi, e auguro a tutti una buona giornata.